Cara, perdonami, è tanto attrivimento, se mi permetti scusa di inviare. Notizia potente che si spense di io ora. Custo coro sorrise stimare. Vite che certo su uno so mi sunnende di se espropriamente innamorende. Apporezzido e mi costringe se ha una risposta. Non ti gretta schimappas impedito per un amore silloso disposta. Casidana de Gai suggerito, e sfalsità de faula composta, non ti arretta gente chi lo è niente, che non so ognuno suo amore. Ma non so chi con uno se si sposa e a sa gente retta non li dare, devo che tu esama te si cosa fino a come mamma manco a viva in sa fino a ma canter bella sa vita amorosa, lo vodes tu e tutto immaginare, la queria provare de pur però la pagherà a colpo un segno. Era un ma canter bella la vita amorosa, lo voles tu e tutto immaginare, la queria provare de guru però da pagare a colpo sicuro. Bye. Baš tu mi užuo talaza, a non ti scrio quasi troppo in delirio, sopra se mi dieran solo ghiaccio re, cattere un ottimo otto regalare, se non d'amore a coro, amore a mai, e non d'amore, amore, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mi da mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma. Disse la lea piano piano che la bone dei nuove che era posta. Ah, che...